succhi arriviamo. Marco da questa parte, mi chiedevo che fine avessi fatto e non ti sentivo da mesi se non da un anno pieno. Io sono qua di passaggio, l'apparato era acceso, ho sentito chiamare, ho fischiato, poi ho chiesto chi era. E beh, come procede? Quindi c'è tutto tu, antenna, impianto, eccetera, no, non hai venduto tutto. No, ma io non vendo mai niente, qua c'è sempre tutto, anzi io... non vendo, io tendo ad acquistare, non vendo mai, acquisto sempre e non vendo mai niente, tanto quando vendi i soldi spariscono e rimane senza soldi e senza, diciamo, le apparecchiature che, diciamo, vendi, capito? Quindi niente vendere e niente, diciamo, dare a nessuno, ok? C'è sempre tutto qua, avevo fatto un po' di stand-by, 3 mesi, era qualche anno già senza entrare, ma... vabbè, adesso ho ripreso di nuovo e niente, vai. Ciao, comunque, fermando molto passo, a livello di QRM, sta arrivando, prima mi arrivava il cuore, quando si dico, parecchio tempo fa, ma adesso mi sta arrivando un po', diciamo, sotto QRM. Avevo una cosa comprensibile, però sei, diciamo, guarrammato, capito, non riesce a passare, diciamo, completamente il QRM, vabbè. Ok, non so come ti sto arrivando io, con la buonasera, mi devi dire come ti sto arrivando dal mio segnale di Santiago Radio Plata, che cambia? Sì, allora io qua ho 4 watt, che poi non sono nemmeno 4, quindi sono liscio, sono ai minimi termini. Allora, segnale 7, modulato 7,5, modulato arrivi fino a 7,5. E purtroppo sì, c'è propagazione che un pochino disturba, però gira la passi abbastanza bene, ecco. Comunque col baracchino poca roba, è un mezzo mortorio, cioè... anch'io spesso lascio acceso, ma non passa tutta la sera che non c'è un'anima, capito? A pare che non c'è nessuno, a momenti ci sono, ma a momenti diciamo non c'è nessuno, ok, boh, è così la frequenza, è sempre stato così, ma non solo qua, anche da altre parti, quando l'ho fatto, quindi non è solo, diciamo, la... c'è anche svolta sul corso così, a momenti c'è gente, a momenti non c'è nessuno, come al solito, vai, vabbè, l'importante è che qualcuno risponda, e via niente, però non è altro, come mi senti di radio, come mi senti, come la radio, se la senti, diciamo, come è chiara, come è, capito, che cazzo. Allora, la modulazione, a dire il vero, non è proprio limpida limpida, è come se fosse, come dire, un po' vattata, un po' come se stesse però quasi al limite di strapparmi, non è proprio limpida limpida, ecco. Sì, forse è perché mi dicevo un po' quello, non so, il microfono un po' particolare, da parecchio originale. Adesso mi sono allontanato un po' dal microfono, a quanto pare. Dovrebbe andare meglio adesso, dai, ok, dovete vedere come adesso la modulazione si è migliorato, sta migliorando, ok, cambia. Adesso però la timbrica sì, adesso è più naturale, ma è troppo bassa, Radio 2. Allora era meglio prima, almeno ti copiavo di radio, non per te, per la propagazione che c'è sotto. capito. E il correndo c'è il correndo 3, 4, anche 5 qua, quindi propagazione, più che propagazione questa qua è diciamo un po' di munghezza atmosferica, ok? Niente di più. Solo parlare basta, non propagazione non ce n'è. Niente, adesso mi sono rivecchiato al microfono e tutto qua, dai. Perfetto. La pausa di cambio. Vediamo se c'è qualcuno vivo a Sassari 27. Chi c'è su 10? Avanti. Tutto, tabula rasa, oggi era anche bella giornata, io ero tutto il giorno fuori, quasi tutto il giorno, dai. Da allora il pranzo fuori e sono rientrato alle 6:30 di sera. E domani dovrebbe essere bello lo stesso. Cappa. E quindi ripeto, Francesco, io ero di passaggio così, sono entrato giusto, ho detto sia mai che qualcuno deve chiedere un controllo, eccetera. E no, all'inizio non t'avevo riconosciuto, poi vabbè, ho ascoltato bene, ha detto il nome e infatti mi chiedevo, ho detto sicuramente magari anche lui si è buriato, ha cessato l'attività perché qua è, cioè, è poca roba, dai, poca roba, non ne vale più la pena di comprare nulla, manca una vite. Sì, dipende, ognuno diciamo ha i suoi modi di fare, di diciamo di pensare via dicendo. Ok, e vabbè, gira, hai ragione anche tu, qualcuno già rientra sempre, non è sempre diciamo vuota diciamo la frequenza, qualcuno già rientra sempre, anche se sono pochi spazi, ma già rientra sempre qualche duro, quindi niente, purtroppo la situazione è così, quando sono entrato io in frequenza, circa una quarantina di anni fa, allora sì che c'erano di gente, torno agli anni 90, anni 80, 80, 85, una cosa del genere, allora sì che c'erano di gente, tutti però erano pieni, diciamo, non potevi diciamo manco treccare che chiunque sia, facciamo una gara a sovramodularsi, attaccare potente e via dicendo. Adesso invece niente, tutto deserto e nessuno fa gare diciamo per entrare diciamo il primo, oppure attaccare potente, diciamo di fare diciamo un po' di casino in frequenza. Adesso di queste cose non ce ne sono più, però si è svuotato il tutto diciamo l'attività diciamo dalla medicina, va bene, l'importante è che sempre qualcuno ci rimanga, la passione c'è sempre, però quando non c'è nessuno la resta c'è lo stesso, se entra o entra, non c'è la pazienza, non ha solo una patrulla corta. Ok, te devo dire che vuoi. Cappa, sicuramente adesso mi ascolterai meglio. Sì, comunque modulando, quando hai fatto la loro vocale lunga sei arrivato anche a sfiorare Santiago 8, quindi dopo tutto il segnale credo che sia quello solito, dai, bene o male eri in quel range, mi ricordo 7, 7 e mezzo, 8, così, dai, vedi un po' se è migliorato da parte mia. Adesso la modulazione è tornata diciamo come era prima, adesso c'è un segnale di 8 pure, un segnale di 8 e una radio di 5%, ok, adesso va benissimo. Tutto così va bene, bene, bene, bene, ok, perfetto, perfetto. Sì, praticamente prima erano 4, adesso sono 50, 50 puliti. Sì, va benissimo, lasciamo così che va bene. Infatti prima di tutto parte di troppo, diciamo, livellato di corrente, diciamo, è mezzo di studi, diciamo, per imparare. Adesso va bene, infatti poi il fruscio, diciamo, della ballottere, niente, adesso va benissimo, lascia tutto così che vai perfettamente bene. Scusa Francesco, che qua dal canale 11 c'è un americano allucinante e arriva a 9:10, 9:15, c'è una modulazione talmente larga che prende tre canali, capito? Prende il 10, l'11 e l'11 alfa, è una cosa allucinante. Sono americani che fanno il Super Bowl, che hanno kilowatt, non watt, no, kilowatt, e quindi arrivano segnali, e poi una cosa allucinante. Quest'anno c'è la propagazione durata tutto l'anno, c'è la propagazione a gennaio e febbraio non la sentivi così, la sentivi solo in primavera e in estate, ma qua non è mai passata la propagazione. Praticamente ci abbiamo tutto un anno intero, se non di più, di propagazione continua, però è propagazione lunga, cioè non senti l'Italia purtroppo, l'Italia la senti primavera e estate al massimo. Questa è molto molto lunga come propagazione, poi se sono kilowattari arrivano ancora più forti. Riprendi pure. Direttamente è così, eh. E oggi avevo anche in qualche canale c'è un po' di propagazione e non sono salito ma così là, sui 45 di solito la propagazione è lì, ma è, diciamo, basta, sono in più canali. Arriva in più canali di propagazione. Le onde atmosferiche che diciamo, le porta al vento tendono diciamo, a far diciamo, salire il segnale abbastanza diciamo, notevole, quindi in più diciamo, la potenza che usano loro, quindi il segnale aumenta sempre di più diciamo, del normale diciamo, che dovrebbe essere. Ok, va perfetto, niente di più, a te cazzo. Ehi, Gami, proprio un attimo fa ho sentito uno splatter più forte, sono passato all'11 un attimo, allora il tizio mi è arrivato a 9 più 20, dagli Stati Uniti, 9 più 20, una modulazione sovramodulata al massimo e quindi perciò prende tre canali in larghezza, forse anche di più. Va bene. Oh Francesco, io devo staccare, devo mettere in mano la lavatrice e quant'altro. Guarda, sul 23 è entrato qualcuno, credo che ci sia Gio Maria e Tore Squalo, perché io qua adesso stacco, non posso proseguire, sarei rimasto volentieri però c'ho da fare. E ci sentiamo quando capita, dai. Ok, perfetto, dai, perfetto. Buon trabacco casalingo, allora. Ci sentiamo, dai, ok, buon proseguimento di serata e. E niente, sentiamo più avanti, dai, perfetto. K, di nuovo buona serata anche agli ascoltoni, ciao a tutti, ciao.